Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. Bugün İtabella'da 1930'ların İtalya'sı var. Dino Olivieri ile başlayalım. 1905 yılında Adriyatik kıyısındaki minik bir kasaba olan Senilia'da doğan Dino Olivieri, Pesaro'daki Rossini Konservatuvarı'nın piyano, armoni ve kompozisyon bölümlerinden mezun olmuş. Kariyerine 30'lu yılların ortalarında başlayan sanatçı, başka pek çok müzisyen için yaptığı düzenleme, orkestrasyonlar ve bestelerle tanınmıştır. Şimdi Dino Olivieri'den 1936 yılından bir parça gelecek. Santileco radyonuzda. Piano, piano, piano, piano, lontano, torna ancora, come l'eco, sento ancora, la tua voce nel mio cuore, se tu gridi, ti risponde, e se ridi, la risposta si sa. Senti l'eco, sa lontana, ma chi ama sogna ancora. Santileco radyonuzdaydı. Milano'da 24 Ocak 1963 yılında yaşamını yitiren Dino Olivieri şimdi bir bahar şarkısıyla bizlerle olacak. Parlak yıldızların altında belki aşk geri döner. Rüzgar beni götür seninle. 1939 yılından bir parça radyonuzda. La mia canzone al vento. Thank you. portami via con te, raggiungeremo insieme il firmamento, dove le stelle brilleranno a cento, e senza alcun rimpianto, voglio scordarmi un tradimento. Vento, vento, portami via con te. La mia canzone al vento radyonuzdaydı. Olivieri'nin 1936 yılında bestelediği, az sonra dinleyeceğimiz Tornerai, bu dönem için çok kıymetli, önemli parçalardan biriydi. Şimdi biz bu parçayı dönemin bir diğer güçlü sesi olan Carlo Butti'den dinliyoruz. Tornerai radyonuzda. Tu sai che t'amo, non ho che te, mi stai lontano, dimmi perché, la nostalgia non senti in cuor, non ti ricordi di me. Questa mia vita non può durar, tu sei fuggita, devi tornar, questo mio cuor ti vuole tornerai da me perché l'unico sogno sei nel mio cuore. Tornerai tu perché senza i tuoi baci languidi non vivrò. Qui dentro mio la tua voce che dice tremando amor, tornerò perché tuo è il mio cuore. Se tu ritorni da me domani, i nostri giorni risplenderà e la perduta felicità nel nostro cuor canterà. Tu mi baciavi con folle ardor, se tu m'amavi con tutto il cuor, non puoi mentir, e certo un dì tornerai da me perché l'unico sogno sei del mio cuore. Tornerai tu perché senza i tuoi baci languidi non vivrò. Ho qui dentro ognor la tua voce che dice tremando amor, tornerò perché tuo è il mio cuore. Tornerai, döneceksin, radyonuzdaydı. Carlo Giuseppe Butti 1902 yılında Floransa'da dünyaya geldi. Butti, popüler ve halk müziğini bir arada temsil eden bir sanatçıydı ve aynı zamanda dönemin ünlü aktörlerinden biriydi. İtalya'nın altın sesi olarak bilinen ve muhtemelen 20. yüzyılda İtalyan müziğinin ilk süperstarıydı. Şimdi unutulmaz ilk aşka hitaben söylediği Prima Amore ile Carlo Butti radyonuzda. Thank you. avuto mai. Un antico stornello me l'ha detto, se tu dimenticarmi me potrai. La prima volta che io ti strinsi al petto, era le tue prime amore, torna a cantare quella canzone da te preferita. Dammi i tuoi baci, io ti darò la vita. Cantiamo assieme il primo amore, non si scorda mai. Per te che ti amo tanto e che sospiro, il canto della notte è una passione, la luna splende un venticello spiro, e porta questo canto al tuo Verone. Tuo primo amore a ricantare quella canzone da te preferita. Dammi i tuoi baci, io ti darò la vita. Cantiamo assieme il primo amore, non si scorda mai. Radyonuzdaydı. Carlo Butti, Montalupo Fiorentino'da 16 Kasım 1963 yılında aramızdan ayrılana dek kariyeri boyunca 1575 şarkı kaydetti. Bu şarkılardan en bilinenlerinden biri olan Abruzzo Dor'dan bir köylü kızını anlatan, mutlu yaşamak istiyorsan gel ve burada yaşa dediği Reginella Campagnola radyonuzda. All'alba quando spunta il sole, là nell'Abruzzo tutto d'or, le prosperose campagnole discendono le valli in fior. Oh campagnola bella, tu sei la reginella, negli occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore delle viole, delle valli tutte in fior. Se canti la tua voce è armonia di pace che si diffonde e dice, se vuoi vivere felice devi vivere quassù. quando era festa dal paesello, con la sua cesta se ne va, trotterellando l'asinello, la porta verso la città. O campagnola bella, tu sei la reginella, negli occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore delle viale, delle valli, tutte in fiore. Se canti la tua voce è armonia di pace, che si diffonde e dice se vuoi vivere felice devi vivere quassù. Ma poi la sera al tramontare con le sue amiche se ne va, e tutto intento a raccontare quel che è avvenuto là in città. Oh campagnola bella, tu sei la reginella, negli occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore delle viole, delle valli tutte in fiore. Se canti la tua voce è armonia di pace, e si diffonde e dice se vuoi vivere felice devi vivere quassù. Reginella Campagnola ile Carlo Bucci radyonuzdaydı. Şimdi yine 1902 Floransa doğumlu bir müzisyen olan Emilio Livi ile devam edelim. Ünlü bir müzisyen olmadan önce bir atölyede mekanik işçisi olarak çalışan Livi, ilk kez 1928 yılında Floransa'daki Verdi Tiyatrosu'nda Donizetti'nin L'Elisir d'Amore operası ile sahneye çıkmış. Ama biz şimdi Emilio Livi'den Stefania'yı dinliyoruz Itabella'da. Strappato dal cuore si disperde lontano. Quel sogno che per giorni ho vissuto e per sempre ho perduto, se non torni da me. Stefania torna per me soltanto, stanotte ho pianto, pensando a te, sul mio cammino si sfoglia le rose, sarà il destino del nostro amore. Stefania rapita nel bel golfo qua giù è tornata, ma tu non ritorni mai più. Stefania, quando il sole discende, che tristezza mi prende, tanto solo così. Thank you. cammino si sfoglia le rose, sarà il destino del nostro amore. Stefania torna, ti vuole. Stefania radyonuzdaydı. Emilio Livi 1937 yılında Trio Lescano e Baretizza Orkestrası ile yaptığı kayıtlarla kariyerinde önemli ve sağlam adımlar attığını ve İtalyan müzik tarihinde kalıcı olduğunu belli etti. Bu birlikteliğin önemli eserlerinden biri olan bir tango bizlerle şimdi. Una chitarra e quattro parole d'amore. Bir gitar ve dört aşk sözüyle Emilio Livi radyonuzda. Nella vana dove il sole d'or in ogni cuore dona il suo calor, una gitana con la sua canzone ci mormorava un dì frasi d'amore che non so scordar, musica semplice che fa sognar per dare ancora un'ombra di illusio a chi un amore fuggì. Chi nel suo cuore mai saprà cos'è felicità, trovò nel canto un mister di gioia e di piacere. Una chitarra per cantare al cuor, quattro parole semplici d'amor, un ritornello che non far tornar la triste nostalgia, una chitarra che cantava amor e sotto il cielo sospirava il cuor, quattro parole per tornassere, ti voglio tanto. A cento a mille si fremeva là, perduti i cuori nell'immensità, e nell'ebbrezza ognun dimenticò la sua infelicità. Col viso acceso da quel canto stra, ognun vedeva lieto l'indomà, e la speranza ritornava allor con tutta l'ansietà. Ogni tormento la svanì nell'illusion così, mentre sembrava ognun sognar l'immuto ad ascoltar. Una chitarra per cantare al cuore, quattro parole semplici d'amore, un ritornello che non fa tornare la triste nostalgia, una chitarra che cantava amore, mi sotto il cielo sospirava il cuore, quattro parole per tornassere, ti voglio tanto. Una chitarra e quattro parole d'amore radyonuzdaydı. Emilio Livi 29 Eylül 1973'te onu her zaman şefkatle kucaklayan Buenos Aires'te öldü. Bir gün yolunuz Buenos Aires'teki Colón Tiyatrosu'na düşerse onun adına minik bir plaketi orada görebilirsiniz. İspanyolca sözleri olan 1939'dan bir kayıtla devam ediyoruz. Emilio Livi, Señorita Inamorata ile Itabella'da. Se una voce ti viene a dir che un musaccio per un tuo bacio mia signorita farai morire. Caramba, la rumba, nell'ansia tremando mi fai danzar, e è da un'ora che sono e tu, questa notte non scendi giù, congelato son diventato per poi di più. Signorita innamorata, tu vuoi farla addormentata, ma con questa serenata, strimpellando, strimpellando, quante cose ti dirò, scendi, scendi vita mia, sono senza compagnia, se non scendi sai che fo, io Valencia suonerò, tu dirai che non lo fa, lo fa. Quando un gatto sospira amor, la gattina con tutto il cuor, dolcemente, perdutamente, si fa baciare nel tenebro. Ingrata, Chiquita, perché questo cuore tu vuoi spezzar? Scendi pure con la mamma, scendi pure col tuo papà, scendi presto con un pretesto, per carità. Signorita innamorata, tu vuoi farla addormentata, ma con questa serenata, strimpellando, strimpellando, quante cose ti dirò, scendi, scendi vita mia, sono senza compagnia, se non scendi sai che fo, io Valencia suonerò, tu dirai che non la fo, la fo. Scendi vita mia, sono senza compagnia, se non scendi sai che fo, io Valencia suonerò, tu dirai che non la fo, la fo. Señorita Innamorata'yı dinledik. Bugün Itabella'da 1930'ların ünlü sesleri var. Dino Olivieri, Carlo Butti ve Emil Olivi bizleydi. Şimdi bir kadınla devam ediyoruz. 1930'larda Mili adıyla tanınan Carolina Francesca Giuseppina Minione, yani Carla Minione, 1905 yılında Piemonte'nin Alessandria'sında dünyaya gelmiş. Annesi kızını yalnız büyütmüş. İlk çıkışını 1924'te yapmış. Şimdi 1933 yılından bir kayıtla bizlerle Ram Pam Pam Mili radyonuzda. Thank you. Ram Pam Pam radyonuzdaydı. Amerika'da ve sinema kariyerinde Milli Monti adıyla bilinen Milli'nin sinema kariyeri Cinque Zero filmiyle 1932 yılında bir Mario Bonnard filmiyle başlıyor. Ama onu oyuncu olarak asıl üne kavuşturan film Tempo Massimo, Maria Mattoli'nin 1934 yapımı filmi. Ardından 1935 yılında Amo Te Sola'da Vittorio De Sica ile birlikte başrolü paylaşıyor. Şimdi biz yine 1935 yılından bir parçayla devam ediyoruz. Milli'ye bu kayıtta Ferruzzi Orkestrası eşlik ediyor. Cade una stella radyonuzda. Tante stelle son nel cielo, quanti sogni nel mio cuore. Penso alla mia stella che più viva brilla e al mio amore tanto lontano. Se nel cielo cade una stella, fan gli innamorati un pensiero, stretti cuore a cuore nella notte stellata. Si sussurran fra mille baci tacite promesse d'amore, tanti baci quante son le stelle d'oro. Se d'una stella al cadere si fa un pensiero, il mio pensiero sei tu, soltanto tu. Sì, voglio ancora tutti i tuoi baci, voglio amarti ancora come allora, perché sempre tanto mi piaci tesoro. Va lo sguardo nella notte, vaga nell'immensità, cerco la mia stella che con lei l'amore al mio cuore farà. Si fa un pensiero, il mio pensiero sei tu, soltanto tu. Sì, voglio ancora tutti i tuoi baci, voglio amarti ancora come allora, perché sempre tanto mi piaci tesoro. Cade una stella radyonuzdaydı. Az evvel Vittorio De Sica'dan bahsetmişken Bisiklet Hırsızları'nın unutulmaz yönetmeninin seslendirdiği sanırım benim en sevdiğim İtalyanca şarkı olan Bana Aşk'tan bahset Mario. Parlami d'amore Mario 1932 yılında Ennio Neri ve Cesare Andrea Bixio tarafından ortaya çıkarılıyor. Vittorio De Sica yorumladıktan sonra bir efsane haline geliyor De Sica ile bağdaştırılarak. Şimdi 1932 yılındaki bu kaydı dinliyoruz. Parlami d'amore Mario ile Vittorio De Sica radyonuzda. Come sei bella, più bella stasera Mario. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirare. Parlami d'amore, Mario, tu tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano come due stelle scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più, parlami d'amore, Mario. So che una bella e maliarda sirena sei tu, so che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu, ma che importa se il mondo si burla di me, meglio nel gorgo profondo ma sempre con te. Parlami d'amore, Mario, tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano come due stelle scintillano. Dimmi che illusione non è, che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più, parlami d'amore, Mario. Parlami d'amore Mario radyonuzdaydı. Desika, Roma ile Napoli'nin ortasında yoksul bir yer olan Sora'da doğuyor ve ailesine yardımcı olmak için genç yaşta memur olarak çalışmaya başlıyor. Roma'da Yüksek Ticaret Enstitüsü'ne gidiyor. Ama oyunculuk hayatına 16 yaşındayken başlıyor. 1933 yılında ise eşi Giuditta Rissone ve Sergio Tafone ile birlikte kendi toplulukları olan Zabum'u kuruyorlar. İşte bu topluluğun bir ürünü olan bir parça şimdi gelecek. Io ti voglio baciare, seni öpmek istiyorum, radyonuzda. Io lo so che non mani, sei cattiva, sei perfida, e se il cuore mi sanguina, la spina mia sei tu. Io lo so che non mani, che mi inganni e che menti, ma di tutti i tormenti nulla importa del mio amore. Io ti voglio baciare per non soffrire, io ti voglio baciare per non morire. Sei crudele e mi piaci, perché nessuna all'ardore dei tuoi baci fanciulla bruna. M'hanno detto gli amici, tu non devi più piangere, lascia andar quella femmina indegna e lei di te. Me l'han detto gli amici che son cieco e cattivo, sì lo so, ma non vivo se mi manca il tuo amore. Io ti voglio baciare per non soffrire, io ti voglio baciare per non morire, sei crudele e mi piaci perché nessuno all'ardor dei tuoi baci fanciulla bruna. Sei crudele e mi piaci perché nessuna all'ardor dei tuoi baci fanciulla bruna. Io ti voglio baciare radyonuzdaydı. Şimdi 1920 Milano doğumlu Luciana Tajoli ile devam edeceğiz. Luciana Tajoli 1939 yılında Milano'da Odeon Tiyatrosu'nda düzenlenen bir ses yarışmasına katılıyor. Ve orada birinci olduktan sonra profesyonel müzik kariyeri başlamış oluyor. Tajoli, Parigi, Virgili, Consolini, Villa gibi pek çok başka sanatçıyla birlikte özellikle savaş sonrası İtalyan müziğinin kahramanlarından biri kabul edilir. Kariyeri boyunca tüm dünyada yaklaşık 45 milyon albüm satıyor. En iyi performansları arasında Rosso di Sera, Mamma, Scrivimi bulunmaktadır. Yine çok bilinen Virgili, Buscaglione, Consolini, Cinquetti, hatta Milva'nın bile icra ettiği toplumsal huzursuzluk ve seks işçiliğinin aşırı cazibesine işaret eden 1928 yılında bestelenmiş bir şarkı ile Tajoli bizlerle. Tango dalle capinere. Laggiù nell'Arizona, terra di sogni e di chimere, se una chitarra suona cantano mille capinere, hanno la chioma bruna, hanno la febbre in cor, chi va a cercare fortuna vi troverà l'amore. A mezzanotte va la ronda del piacere e nell'oscurità ognuno vuol godere, son baci di passione, l'amor non sa tacere e questa è la canzone di mille capinere. Bandolero stanco scende la sierra misteriosa sul suo cavallo bianco, spicca la vampa di una rosa, quel fiore di primavera vuol dire fedeltà, e alla sua capinera egli lo porterà. A mezzanotte va la ronda del piacere e nell'oscurità ognuno uno vuol godere, son baci di passione. L'amor non sa tacere, e questa è la canzone di mille capi nere. Son baci di passione, l'amor non sa tacere, e questa è la canzone di mille capi nere. Tango delle capi nere radyonuzdaydı. Tayoli ile devam ediyoruz. Tayoli'ye 1939 yılında Odeon Tiyatrosu'ndaki ses yarışmasında birinciliği getiren parçayla devam edeceğiz şimdi. Bu parçanın yaratıcısı da çok çok çok önemli bir İtalyan müzisyen. Alexandre Derevitsky, 1909 Napoli doğumlu İtalyan besteci ve orkestra şefiydi. 1974 yılında yaşamını yitiriyor. Şimdi Luciano Tayoli bir Derevitsky parçasıyla bizlerle olacak. Radio di Sole radyonuzda. La prima stella illumina il cammino dove fiori l'amore mano a mano, ma tutto s'è sperduto nel destino. Mi sei vicino e stai tanto lontano. Ti trema sulle labbra una parola che mi farà morire. Amore mio, ma come pensi tu di dirmi addio? Il cuore mio per quale strada troverà l'oblio? Amore, amore, non darmi più pene. Cuore mio, cuore, manca il sole senza te. La notte fra le stelle si è sperduta, perché vuoi dirmi amore che è finita? La luna ci conosce e ci saluta, oh come bello in due sognar la vita. Tremare ti sento il cuore mio sul cuore, tu vuoi lasciarmi e piangi pure tu. Amore mio, ma come pensi tu di dirmi addio? Il cuore mio per quale strada troverà l'oblio? Amore, amore, non darmi più pene. Ti voglio tanto bene. Al mio cuore manca il sole senza te. Ti voglio tanto bene. Senza te mi manca il sole, perché il sole mio. Radyo Radio di Sole radyonuzdaydı. 1939 yılından bir kayıt dinledik. Şimdi 1935 yılından bir tango ile kapatacağız. 1884 Roma doğumlu Ettore Petrolini bizlerle olacak. Petrolini çok çok ünlü bir İtalyan aktör, oyun yazarı, şarkıcı, besteci ve komedyendi. Avant Spectacolo, Vaudeville ve Revue'nün önemli figürlerinden biri olarak kabul edildi. Sayısız karikatür skeçleriyle tanındı ve en önemlisi devrimci ve antikonformist performans tarzının da mucidiydi. 1936 yılında yine Roma'da hayata gözlerini yumdu. Ben Cansın Sahesen. Itabella'da bu hafta 30'lar vardı. Şimdi Ettore Petrolini'den Tango Romano ile kapatıyoruz. Hoşça kalın. Primavera che fa bene al cuore, dura un momento e fugge di carriera, ma se ci avessi un friccico d'amore, per me sarebbe sempre primavera. Perché l'amore sia bello come te, fa nascere anche l'inverno, le rose e le panze. Se tu m'amassi, fiore di gioventù, sarebbe un sogno d'oro che non finisce più. Finish.